fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi non ho nessuna intenzione di creare tristezza, sensi di mortificazione e togliere serenità a chi mi ascolta, però oggi voglio parlare del nostro tenore di vita. Tenore di vita medio, di persone medie, di persone che sono convinte comunque di fare una vita controllata, di togliersi ogni tanto qualche piccola voluttuosa libertà, ma che in realtà non hanno la percezione di essere degli spreconi. Nonostante questo, in realtà noi uomini occidentali abbiamo un tenore di vita, abbiamo una facilità nell'amministrare le risorse a nostra disposizione che non potremmo permetterci ancora per molto tempo. Noi in realtà sprechiamo molte risorse, molte energie. Una metafora che ho intravisto stamattina nel libro dell'ospite che fra poco vi presenterò presenta come un appartamento con due stanze contigue. In una stanza ci sono delle persone che buttano dalla finestra continuamente cibo, vestiti, risorse, generi di consumo. Nell'altra contigua ci sono dei vicini che in realtà stentatamente riescono ad arrivare a fine mese con quello che guadagnano. Questa è una realtà che viviamo continuamente nel nostro paese. Basta prendere un taxi, i tassisti sono la mia chiave di lettura del polso della contemporaneità. Il tassista dice ogni volta, vede lei, dov'è sta crisi? Il tassista bloccato nel traffico, circondato dai SUV, con la strada occupata da macchine lussuose in seconda fila, vede signore assiparsi di fronte a negozi, vede gente in movimento, dice ma dove sarà sta crisi? E come fa la gente? Perché tutti si lamentano? Le strade sono piene, traboccano di persone. E traboccano di opulenza. Altresì è vero che molte volte, semplicemente invece prendendo una metropolitana, prendendo un autobus, si vedono quei piccoli ma percettibili segni di miseria quotidiana seminascosta, i cappotti lisi degli anziani, le signore con le borse della spesa traboccanti di generi alimentari comprati all'ultimo istante, quando i mercati stanno per chiudere, le cose costano meno, si vede dalla tenuta delle scarpe delle persone, lo si vede dallo stato delle unghie, verniciate messe a posto a mano perché non ci si può permettere la manicure, ci si vede da certi segni che in realtà esiste molto stento. Ecco, noi come viviamo in questa duplice realtà e quanto ce lo potremmo permettere ancora? Giorni fa ho sentito Jacques Attali, che è uno dei geni dei fantastici scenari futuri del nostro universo, dice beh, presto quelli che oggi sono comportamenti definiti come comportamenti etici, comportamenti culturalmente e anche ideologicamente molto connotati, di fare una vita equa e solidale, di fare una vita controllata, di fare una vita in cui i consumi vengono svolti in maniera più oculata, diventerà un domani la prima fonte di vessazione da parte di chi detiene il potere nei confronti delle popolazioni. Vi sarà detto, voi avete a disposizione, che ne so, 20 litri d'acqua a settimana, fateci quello che volete, innaffiateci le piante, lavatevi i piedi, bevetela, datela ai vostri figli, scialacquatela, ma non avete più di questo tipo di quantitativo. Insomma, le risorse non sono infinite, la nostra capacità, la nostra volontà e la nostra voluttà di usarle invece sembra infinita. Qui ce ne sono alcune. Stai qui, poi guarda c'è e ascolta. Dove sono le cinture? Ok, ecco, la scelta è ardua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, niente. Ecco, solo che quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora... Di questa roba? Oddio. Oh. Ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Nel Diavolo Veste Praga, una mefistofelica Meryl Streep dimostra alla sua ultima lavorante che in realtà quel meccanismo apparentemente fatto, apparentemente lontano dalla sua politicamente corretta maniera di percepire la realtà, cioè di comprare il golfino celeste al mercatino, in realtà è la causa scatenante per cui quel golfino celeste si trova al mercatino, e quindi non è indifferente. Quindi il grande meccanismo che sembrerebbe così lontano anche dalla nostra sensibilità di persone normalmente dotate di strumenti culturali, in realtà è quello che crea questa grossa differenza tra la stanza in cui le cose si buttano dalla finestra e la stanza in cui si vorrebbe poter raccogliere al volo qualcosa che quegli altri buttano dalla finestra. Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo, e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui? E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Naturalmente la mia incapacità di frenare a volte alcuni disgusti viscerali fa dire Il diavolo veste Praga invece che Il diavolo veste Praga, che Prada naturalmente, che è il vero titolo di questo film. Avete visto l'iter del golfino ceruleo della povera ragazza, in realtà nasconde dietro un meccanismo stritolante da cui non si fugge. Oggi in realtà ci sentiamo in bisogno, in dovere, quasi in senso di colpa nel consumare oltre quello che consideriamo un giusto e lecito limite di rispetto delle risorse comuni, ma d'altra parte se ci fermiamo si ferma il sistema. Se noi non consumiamo creiamo un grosso danno al resto del mondo. Mi sta scrivendo già la prima ascoltatrice, Melania, dice che ha aperto un gruppo su Facebook per il libero scambio di vestiti e accessori che non usiamo più, quindi già si sta cominciando a porre il problema. Allora io ho detto no, che non vedevo la differenza tra due cinture effettivamente identiche. Avresti dovuto vedere come mi ha fulminato. Ti giuro, pensavo che le si sciogliesse la pelle dal viso. Non c'è niente da ridere. E non è contenta se tutti accanto a lei non sono in preda al panico, alla nausea e tentano il suicidio. E sembra sempre che si stiano curando il cancro. Oh, assurda. La quantità di tempo e di energia che questa gente dedica a dei dettagli infimi e insignificanti. E per cosa? Perché domani potranno spendere altri $300,000 per rifare un servizio che probabilmente andava già bene prima, per poi vendere alla gente oggetti di cui non ha bisogno. Dio! Mi è passata persino la fame. 800 24 00 24, si cominci a telefonare, si cominci a porre quel problema che noi abbiamo soltanto lambito all'inizio, di come comportarci di fronte a un senso di angoscia che coglie tutti, ma non ci angosciamo eccessivamente, viviamo comunque serenamente anche i concreti motivi di angoscia che ci porrebbe a risparmiare, a tenerci tutto dentro, a fare una vita da formichine. E il meccanismo che ormai sembra totalmente impossibilitato a darci anche questa possibilità ci dice: no, dovete fare le cicale, perché se vi fermate, se fate le formiche, si ferma tutto, cade il mondo. Antonio Galdo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Antonio Galdo, scrittore, giornalista, collega, ha scritto un libro, Non sprecare, e anche titolare di un sito internet appunto dedicato al non spreco, www.nonsprecare.it, potete andarvelo a vedere. Antonio Galdo ha raccolto in un libro pubblicato dagli Struzzi Einaudi, appunto titolato Non sprecare, alcune storie, alcuni spunti, alcune interessanti riflessioni su persone che probabilmente con una sensibilità maggiore della nostra, anche strumenti culturali che cercheremo di apprendere questa mattina, già si stanno ponendo concretamente il problema. Sì, innanzitutto volevo dire che non sprecare non significa eliminare il consumo, significa distinguere l'utile dal superfluo, il necessario dall'inutile, significa dare un valore alle cose, significa condividere stili di vita che siano anche più sobri, più misurati, e significa, rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento, affrontare la crisi con ottimismo, rispetto a quello che dicevi tu anche all'inizio, cioè tutti siamo più poveri con questa crisi, che secondo me non è solo una crisi economica, ma è un vero cambio d'epoca, ma tutti abbiamo una grande opportunità. Uscire da questa trappola, che è stata la trappola costruita su misura negli ultimi 20 anni, di un modello di sviluppo dove si immaginava che più consumo, più produzione, più benessere. Questo è il circolo che si è spezzato con la crisi e che oggi, sulla base di uno stato di necessità, ci chiama in causa e ci chiede di rivedere i nostri stili di vita, a cominciare da quello appunto di non sprecare. Ecco, sei d'accordo che potrebbe diventare in realtà uno degli strumenti più temuti e più vessatori da parte appunto delle amministrazioni del potere, quando il non spreco dovrà diventare un imperativo, quando ci saranno delle risorse talmente limitate per tutti e dovranno dirci per forza questo è quello che avete voi a disposizione, finirà questa idea che in realtà tutti possono acquistare a livelli sproporzionati. Mi pongo il problema, non so, delle automobili, vedo che è un problema molto sentito, oggi occupa le prime pagine dei giornali, ma in realtà il mercato automobile sembra, nella nostra percezione personale, un mercato saturo. Perché dovremmo aver bisogno di nuove automobili? Però ecco, smettere di comprarle significa creare una crisi insanabile per il paese. Credo che il rischio c'è, quello che dice Attali è sicuramente una possibilità, ma è un rischio che va evitato laddove non sprecare diventa una libera scelta e diventa una decisione individuale e collettiva. Partiamo proprio dall'esempio delle auto, che è la prima grande scossa di politica economica che ha dato Obama, e partiamo dalle nostre case prima di arrivare alle scelte di un governo. Tutti siamo vittime dell'automobile, siamo doppiamente vittime. Ne siamo vittime perché ne abbiamo tante, non sappiamo dove metterle, non sappiamo come parcheggiarle, abbiamo un problema quotidiano di mobilità nei centri storici, e tutti ne siamo vittime perché queste macchine sono macchine altamente inquinanti. Però siamo dei grandissimi consumatori. In Italia abbiamo il record in Europa rispetto al consumo di automobili. Ovviamente, attenzione, queste macchine in America si comprano prevalentemente a debito. Il 90% delle auto vendute in America sono state vendute a debito, quindi hanno alimentato quella bolla che poi esplosa. Che cosa significa un modello di sviluppo nuovo? Significa A, puntare su macchine che siano ecocompatibili, cioè macchine con un consumo di energia più basso, quindi macchine che inquinano meno, macchine che costano meno, macchine anche più agili da usare. B, significa con questo liberare risorse all'interno delle amministrazioni comunali per migliorare il servizio dei trasporti pubblici, per migliorare l'arredo urbano, per migliorare l'assetto viario. Pensate che in Europa, sono dati pubblicati recentemente dalla Commissione, siamo arrivati a 46.000 morti sulle strade, dei quali 2/3 avvengono nei centri urbani, quindi c'è anche un problema di sicurezza. Sì, però Antonio, questo i bellissimi propositi che si dicono sempre, di cui si parla sempre nei momenti delle campagne elettorali, sono le cose che ci diciamo sempre la sera davanti al camminetto con gli amici, ma poco la nostra scelta individuale poi influisce in queste scelte. Certo, ci vorrebbero i centri storici a misura d'uomo, i giardinetti che non siano semplicemente dei luoghi asfittici dove si parcheggiano i motorini, e ci vorrebbero le corsie preferenziali rispettate, il trasporto pubblico, tutte queste cose qua. Però ancora non siamo entrati in quelle che possono essere le scelte che ognuno di noi fa quotidianamente, giorno per giorno. Rientrano le scelte che ci augureremmo che si facessero pubblicamente, ma mentre la cosa pubblica aspetta, prende i suoi tempi, ha le sue priorità, noi ci troviamo sempre di più di fronte a un problema quotidiano, le famose due stanze contigue. Entriamo alternativamente nella stanza di quelli che sembra che da un momento all'altro si aspettino la catastrofe sulla testa e tremano e guardano i loro risparmi in banca, non fanno investimenti, ritirano tutti gli investimenti e si aspettano una sorta di periodo di guerra. E contemporaneamente siamo allo stesso tempo quelli che, se apriamo gli armadi, traboccano di vestiti, e se apriamo il frigorifero è un'infinità i prodotti che poi buttiamo via, non usiamo, lasciamo a metà, sprechiamo, compriamo senza oculatezza. Come mai? Restando alla metafora dell'auto, vedi, il cambiamento passa io sono per le scelte innanzitutto individuali, passa per il convincersi che probabilmente abbiamo troppe macchine nei paesi come il nostro del benessere. E che cosa abbiamo immaginato laddove questo mercato è diventato saturo, perché le nostre famiglie sono piene di auto che non sappiamo più dove mettere? Abbiamo pensato che a questo punto il settore automobilistico potesse reggere alla minore domanda nei paesi sottosviluppati con il boom della domanda nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Ecco, questo è l'errore di fondo. Il nuovo modello di sviluppo passa invece per una scelta che evoca anche i comportamenti dei consumatori: avere meno macchine, e avere macchine evidentemente che consumano molto meno dal punto di vista delle risorse energetiche. Il cibo, e qui vengo proprio al discorso che tu facevi delle due stanze, è evidente che un mondo così squilibrato, dove appunto in una stanza si spreca e in una si crepa, è un mondo che non può reggere, un mondo dove il conflitto diventa naturale. In Inghilterra in questo momento c'è una discussione pubblica molto forte sul fatto che il governo ha fatto uno studio dal quale risulta la quantità di cibo che viene sprecato dalle famiglie inglesi, e ha calcolato che con quel cibo sprecato, se solo quel cibo fosse recuperato, si potrebbero sfamare oggi 150 milioni di africani. Capisci che qui non parliamo di retorica, di concetti astratti, qui parliamo di vite quotidiane, che passano però per un'idea che il cibo che io compro nel mio frigorifero non deve finire nella spazzatura. Cominciamo a sentire le voci degli ascoltatori. Matteo, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Io sarò un po' maleducato. No, perché? No, chiamo adesso perché non sono riuscito a prendere prima la linea. Non posso tacere e dire che avete trasmesso una porcheria. Il suo parere, lo rispetto. Battista che crocifiggono quei signori di Genchi. No, la porcheria, scusi, quando la porcheria? Prima avete avuto la brillante idea di... Che brillante, finalmente, sì. Invitare Gioacchino Genchi, la persona... Sì, però scusi, è poco corretto che io mi prenda in questa trasmissione critiche a una trasmissione precedente senza che gli interlocutori possano rispondere. Non faccio difese ufficio, ma perché una porcheria? Fare un programma cavalcando quella che è un tema di grande attualità non mi sembra una porcheria, è dare degli spunti di riflessione agli ascoltatori, non ci sono preclusioni. Comunque chiudo questa parte perché non sono io che devo rispondere su questo. Comunque, ringrazio stesso. La parola porcheria è una parola un po' forte che non accetto, però è il suo parere, se ne fa carico lei. Una persona squisita e gentile. Sì, così è gentile, ma le dice una porcheria semplicemente perché hanno chiamato ospite un ospite che è al centro dell'attenzione e della cronaca di tutti i giornali. Chapeau a chi ha modo di parlarne e farlo parlare, secondo me. Ma non lo hanno fatto parlare. Ma come non hanno fatto parlare? Hanno parlato per un'ora, ma cosa sta dicendo? Io non... Beh, comunque andiamo sul nostro tema, perché adesso se no travalichiamo. Non ho altro da aggiungere, sì. Volevo solo dire. Ah, solo su questo, ha chiamato solo per dirmi questo? Esatto. E non doveva dire nulla sulla trasmissione di oggi? No, perché ho ancora lo stomaco sotto sopra. Sì, vabbè, scusi, però scavarsi una nicchia furtiva in un altro programma dicendo che deve parlare degli sprechi, poi deve fare una critica a Ferrara, io ci faccio una risata sopra, ma non è un comportamento adeguato. Lei ci ha preso in giro, dice devo parlare degli sprechi, poi in realtà voleva fare la furbata di dire la sua parolina saccente sul programma che non le è piaciuto. Faccia quello che vuole. Buona giornata. Filippo. Buongiorno. Lei deve parlare di questo programma o di altri programmi? No, di questo problema. Ecco, perfetto. La buona, sana motosega che abbiamo messo da parte potremmo sempre ritirarla fuori. Prego, andiamo avanti. Senta, io volevo dire una cosa, che praticamente noi, volevo fare un intervento un po' provocatorio, non possiamo conservare un gelato, imbustarlo per portarlo al terzo mondo. Noi abbiamo bisogno di fare sistema in Italia, il governo faccia sistema. Perché c'è bisogno. Sì, però scusi se la taglio... Questa non è una trasmissione in cui bisogna dire cosa deve fare il governo, e non me ne importa nulla in questo momento, in questo contesto. Sono cose che potremmo parlarne in altri. Io sto parlando di un problema individuale, personale, di coscienza e di attenzione. Ma l'individuo diventa collettività insieme. Sì, ho capito. Allora, se usiamo il riciclo, possiamo aumentare la nostra capacità di consumo, possiamo soddisfare ogni nostro bisogno. Se noi, ad esempio, usiamo del materiale riciclabile, faccio un esempio, se un banco di ferro poi verrà fuso per fare altri oggetti, per soddisfare le nostre, i nostri bisogni. E per questo... esattamente. Secondo lei però esiste un'attenzione individuale nel fare dei passi, piccoli passi quotidiani che vanno dalle stupidaggini che sono sempre state attribuite semplicemente a una visione molto parziale dell'esistenza, queste sono cose da ecologista, oppure sono cose da... perché tu sei di sinistra, pensi così, adesso le dico delle banalizzazioni scellerate, capito? Ma normalmente non c'è una percezione comune che certe attenzioni in realtà facciano bene anche a chi le fa, non semplicemente impugnare un genere di vita come quelli che sono vegetariani o quelli che fanno la doccia invece che il bagno per non sprecare acqua. Molte volte sono anche oggetto di facezie e di scherzi, anche da parte mia. Quando il presidente del WWF Pratesi disse che lui non lavava i piatti e mangiava sui piatti pulendoli con il pane per risparmiare, ci ho fatto una risata sopra anch'io. Però al di là degli estremismi, io penso che in realtà forse dovremmo cominciare anche noi, che siamo sempre stati cicale nella vita, a considerare queste cose. Sei d'accordo, Galdo? Sì, segnalo che nella svolta di Obama, che sicuramente avrà riflessi anche in Europa e al di là dell'Atlantico, l'ecologismo perde qualsiasi connotato ideologico, perde qualsiasi connotato anni 70, per capirci come ce lo siamo trascinato dietro fino ad oggi, e diventa, e questo è molto interessante secondo me, diventa un volano sul quale costruire un nuovo modello di crescita. Melog 2.0. 10 regole per risparmiare rispettando l'ambiente. Preferire l'acquisto di prodotti locali che non devono subire lunghi trasporti con mezzi inquinanti. Scegliere frutta e verdura di stagione che non consumano energia per la conservazione. Fare acquisti direttamente dal produttore per evitare passaggi di mano del prodotto e inutili trasporti. Privilegiare i prodotti sfusi che non consumano imballaggi. Acquistare confezioni formato famiglia rispetto a quelle monodose per ridurre il consumo di imballaggi. Fare acquisti di gruppo per ridurre i consumi di energia nei trasporti per fare la spesa. Riutilizzare le borse per la spesa e servirsi di quelle di tela invece di quelle in plastica. In cucina, usare cibi con pentole e frigoriferi a basso impatto. Evitare di usare a tavola piatti e bicchieri di plastica che consumano energia e inquinano l'ambiente. Fare la raccolta differenziata per consentire il recupero di energia dai rifiuti prodotti. 800240024, 0024, oggi stiamo parlando del non sprecare, in studio Antonio Galdo, che ha scritto su questo un libro edito dall'Inaudi, ma che gestisce anche un sito internet, nonsprecate.it, dove ci sono alcune regole per fare una vita maggiormente attenta al bene personale comune. Quello che stiamo dicendo con Galdo, cercando di far capire che queste regole, questi decalghi, la raccolta differenziata, gli abiti fatti in una certa maniera, una certa ricerca nell'acquisto, hanno sempre attenuto a una certa classe di persone definite in maniera a volte ironica, ma da me per primo, quindi non me ne astraggo, gli ecologisti, gli ambientalisti, quelli che fanno parte di un mondo di facezze legato a chi veste abiti naturali, chi consuma prodotti equisolidali e via dicendo. Quello mi sembra di aver capito, che sto anch'io capendo, a me sulle mie spalle e sugli estratti conto della mia banca che mi arrivano ogni mese, che in realtà dovremmo cominciare a guardare anche nel nostro privato, togliendo ideologia a questo comportamento, ma considerando come un comportamento necessario e comune. Su questo siamo lasciati, Antonio, no? Sì, tu accennavi anche prima a quanto questo un comportamento con nuovi stili di vita possa essere faticoso. Io invece la vedo in modo molto più semplice. Faccio un esempio. Qualche anno fa parlare nelle nostre case di raccolta differenziata era veramente una roba che ti faceva immaginare qualcosa di molto complicato, qualcosa che sostanzialmente ti peggiorava la vita. poi ci siamo accorti invece che quello non solo è un comportamento virtuoso, ma è un comportamento anche semplice, anche banale. Fare la raccolta differenziata oggi in molte case è una consuetudine assolutamente naturale. Il problema nasce quando poi devi trovare i cassonetti adeguati, ecco, la portata di sacchetto. No, nasce quando si deve attraversare mezzo quartiere per portare, esatto, le bottiglie. Alla fine sai che faccio? Butto tutto il cassonetto e chi se ne frega. Esatto. Questa è l'idea generale che a volte abbraccio anch'io. E guarda come l'ecologia, diciamo, sradicata dalla radice ideologica diventa buona amministrazione. È esattamente così, cioè la raccolta differenziata ha un senso se c'è un ciclo completo dei rifiuti che funziona, a cominciare dal cassonetto sotto casa. Ma che cosa significa la raccolta differenziata declinata secondo la regola del non sprecare? Significa per esempio che gli imballaggi vengono sostanzialmente depotenziati, quegli imballaggi, attenzione, che valgono quasi il 50% dei rifiuti. Forse gli italiani non sanno che le nostre strade, le nostre case, i nostri marciapiedi sono coperti da rifiuti, perché c'è il peso ingombrante, ecco lo spreco, dell'imballaggio, che non solo produce rifiuti, ma in moltissimi casi aumenta la spirale dei prezzi fino a un terzo. Ora, capite bene che non sprecare, che appunto nel caso del ciclo dei rifiuti significa partire dalla raccolta differenziata, mette in moto un meccanismo che è quello del modello di sviluppo, che ha a che fare anche, lo diceva prima un ascoltatore, con il riciclo dei materiali e con migliaia di aziende che in questo momento in Italia lavorano in questo settore. Antonio, buongiorno. Io volevo dire questo, che sono pienamente d'accordo quando voi parlate adesso di una nuova austerità, no, per il momento economico che passiamo, però... No, sa, posso dire una cosa? Austerità è un termine che dà l'idea di micragna, di qualcosa di imposto, di etico. Io direi di necessità vitale, forse. Perfetto. Volevo dire questo. Lo dico credendoci poco anch'io, nel senso, sentendo che è difficile anche per me adeguare la mia idea, però è un proposito che mi sento di condividere con gli ascoltatori. Io volevo dire questo, che le industrie stesse che fanno prodotti, da molto tempo ormai fanno prodotti per, diciamo, che non durino, gli americani li chiamano build to fail, certo, cioè costruiti, certo, perché durino poco. Proprio con un meccanismo di autodistruzione a orologeria. Diciamo, per esempio, pensi alle scarpe. Sì, io sì. Sto pensando, per esempio, fanno delle scarpe a cui non si possono più cambiare i tacchi. Cioè, una volta che il tacco è consumato, tu le prendi e le butti via. Certo. Ecco, questo proprio perché si è tutto basato ormai da diversi decenni sul concetto di consumo come spreco, almeno all'80%. Adesso cambiare non solo, diciamo, la nostra mentalità di umili consumatori, ma cambiare anche il sistema industriale sarà, cioè non sarà questione di un anno o due. Quindi è molto bello adesso parlare, dice, ah, ma tornate a essere bravi come eravate bravi subito dopo la guerra, eccetera. Non sarà affatto facile, perché... Ma ci rendiamo conto che noi stiamo cavalcando l'utopia, ce ne rendiamo perfettamente conto, ma... ha altre soluzioni di fronte all'urgenza di un problema che comunque porse degli scenari possibili. Poi è chiaro, nessuno vuol cambiare il mondo, ha l'illusione, no, che il mondo cambi. Io soluzioni non ne ho, però dico, lei pensi per esempio alla diversità di esigenze. Una, cioè quella di essere più parsimoniosi dato il momento. L'altra, anche consigliata da... di non fermare la macchina dei consumi. Esattamente, quindi consumare. Ma noi di questo, guardi, questa mattina, di questa nostra individuale e profondamente sentita schizofrenia stiamo parlando. Capiamo perfettamente che se si ferma la macchina si ferma il sistema. Quindi nessuno di noi rinuncerà a comprarsi la giacchetta nuova quando già l'armadio è pieno. D'altro canto ci pesa questa cosa, perché sappiamo che facciamo qualcosa come le nostre madri. Sono figlio del dopoguerra, quindi vengo da generazioni in cui le cose bisognava soprattutto meritarle, poi mai fare un passo oltre lo spreco, capito? Il frigorifero era pieno, ma se c'era bisogno si consumava, se no si aspettava. Ecco, queste due anime riemergono fortemente in noi, e quella del boom dissolutorio, folle e divertito nel consumo, e quella del senso profondo, austero e quasi punitivo dei genitori che hanno fatto la guerra, ci sia un'attenzione a non sprecare. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo intervenire sulla trasmissione perché sono perfettamente d'accordo con l'esperto che c'è lì per ridurre i consumi e tutto quanto, però a me quello che mi fa arrabbiare e che fino a ieri, cioè a ieri inteso proprio ieri figurato, nel senso che gli esperti fino a ieri dicevano bisogna incentivare i consumi, noi siamo l'Italia con fronte dei paesi europei e adoperiamo poco la carta di credito, noi dobbiamo indebitarci di più, perché le faccio un esempio, se fino a ieri uno non prendeva un mutuo per comprarsi una casa, cioè ma cosa stai a fare? Cioè, c'era questa cosa di indebitarsi. Sì, ma Fabrizio, mi scusi se mi ripeto, prego. Io sto dicendo... Non diciamo in questo momento bisogna fare tutte le formiche. No, quello cerchiamo di capire. E noi ci confrontiamo comunemente sul nostro senso, non voglio dire di perplessità, ma di attenzione un attimo a quello che occorre fare in questa duplice istinto. Quello di dover essere necessariamente cicale, se no il sistema si ferma, ma di sentire profondamente un bisogno che forse raramente avevamo sentito negli ultimi decenni, di dover essere anche formiche. Fa un prodotto più durevole. Però io mi arrabbio con gli esperti, cioè mi arrabbio perché mi sembra che fanno le previsioni del tempo quando aprono la finestra e guardano di fuori se piove, se oggi piove, e se aprono la finestra e c'è il sole, oggi c'è il sole. Questo mi fa arrabbiare. In questo senso qui, io sono perfettamente d'accordo. No, la mia agenda di indovini, ahimè, è molto carente, non ne ho sotto mano le persone che indovinano. Posso trovare delle persone che assieme a me, faticosamente, con tutti i margini di perfettibilità possibile, danno un occhio a quello che abbiamo intorno. Le volevo solo rubare due minuti, no, sono perfettamente d'accordo con lei. Rubare due minuti nel senso che abbiamo comunque un sistema anche politico che chiaramente questo che dite voi non ci pensa lontanamente su sì, ho capito. Queste cose qui. Non è che mi voglio... Uno sviluppo basato sugli ipermercati e io sono contrario. Cioè, noi abbiamo le cassette della posta, della pubblicità, di consumare, di comprare rate, ma è certamente che bisogna dargli un taglio a queste cose. Non sarà semplice e sarà doloroso perché ci siamo basati solo sul consumismo più sfrenato e sono d'accordo con lei che siamo arrivati a un punto che bisogna darci un taglio. Ci sarà un dolore, ma però bisogna darci un taglio. Però, come dico, mi dà fastidio perché abbiamo una classe politica che fa il contrario. Abbiamo degli esperti che vanno secondo quello che gli dice la classe politica e allora bisogna dire anche questo, oltre che magari sempre ogni volta responsabilizzare gli italiani che dire così consumiamo troppo. No, cioè, guardi, scusi. Il periodo di novembre, per un mese c'è stato un terrorismo mediatico dove si parlava che noi dovevamo ormai essere a rotoli come Italia. Degli ultimi due giorni o tre giorni è cominciato a dire che bisogna consumare, perché bisogna consumare per mandare avanti l'economia, cioè anche l'informazione non deve essere sempre al servizio. Sì, però Fabrizio, ma a me non mi piace tanto generalizzare, è da questa sua affermazione, potrebbe averla fatta oggi, domani, fra un mese, fra sei anni, è il tipico rimbrotto dell'ascoltatore che dice piove, governo ladro, d'accordo, non mi sento assolto da nessuna delle responsabilità che lei attribuisce ai mezzi di informazione. Questa era una pacata e intima conversazione fra persone che hanno gli stessi problemi. Io stesso, anche se faccio il conduttore radiofonico e il giornalista, ho anch'io gli stessi problemi di cui sto parlando. Non ne parlo in maniera astratta. Mi confronto con delle persone che hanno qualche elemento di valutazione un po' più serrato di quelli che ho io per capire esiste questo tipo di perplessità. Non do formule solo. Io non ho la chiave in mano di ogni soluzione. È vero, noi abbiamo in coscienza la consapevolezza che non ci possiamo fermare nei nostri consumi, ma altresì abbiamo difficile da prevedere obiettivo che certe cose dovremmo prima o poi rinunciarci. Come comportarci? Non lo so, non c'è una chiave di soluzione in questo momento. Una trasmissione radiofonica non può risolvere dei problemi così grossi, però certificare e raccontare uno stato d'animo che vedo condiviso da molte persone mi sembra un'operazione che fa parte comunque dei nostri diritti, doveri di esprimerci. Grazie. 800 24 0024, stiamo valutando uno stato d'animo che condividiamo, penso, con gran parte del nostro paese in questo equilibrio difficile da mantenere fra una coscienza concreta e reale che in effetti non si può fermare la macchina del consumo e un senso profondo che ci fa pensare che in realtà forse qualcosa dovrebbe cambiare, perlomeno nella nostra attività ludica e voluttuosa di consumatori. Ho in studio Antonio Galdo, che ha scritto il libro Non sprecare, che voleva aggiungere qualcosa rispetto a quello che ci avevamo detto con gli ascoltatori prima. Sì, è molto interessante quello che ha detto prima un ascoltatore a proposito del fatto che il perverso meccanismo del consumo a tutti i costi ha fatto sì che moltissimi oggetti sono non riparabili. Pensate per esempio a tutta una serie di prodotti che hanno a che fare con la tecnologia, il telefonino, pensate anche al computer, eccetera. Molto spesso si va a riparare... Mentre parlavi prima pensavo che io devo cambiare un CD-ROM al mio computer, mi ha detto ma conviene ricomprarlo nuovo, perde conviene tempo. Conviene ricomprarlo, ecco, questa è la risposta standard, che è la tipica risposta di questo meccanismo perverso. In realtà è il contrario, se recuperiamo una cultura del valore delle cose, ne recuperiamo anche la necessità di saper fare la manutenzione. La manutenzione evoca una filiera di lavori, opportunità e quindi occasioni per chi evidentemente è incaricato poi di gestirla. Però i primi dobbiamo essere noi, e qui sono molto d'accordo con te, cioè non evochiamo sempre gli altri, la politica, il governo, cominciamo a riflettere sui nostri comportamenti. Sul mio sito nosprecate.it abbiamo molte lettere, segnalazioni di persone che chiedono anche consigli, eccetera. Una signora mi ha scritto dicendo che per accontentare la figlia a un certo punto le ha dato la carta di credito e ha scoperto che sua figlia in un giorno ha comprato 14 paio di scarpe. È chiaro che c'è qualcosa di patologico in questo, però ti dà il senso di come il consumo a volte... Spenderà altrettanto in psicanalista, penso, ecco, per riportarsela. Ecco, infatti da lì poi il passaggio successivo è il lettino dello psicanalista. Però attenzione, è indicativo di un sistema. Non a caso in America la bolla del debito ci ha fatto scoprire che mediamente una famiglia americana è indebitata solo con le carte di credito di oltre $10,000. Questo è il sistema che dobbiamo spezzare. È altresì vero che è ridicolo molte volte vedere persone che si portano dietro il malloppo con i dobloni semplicemente perché non si fidano della carta di credito. Abbiamo delle schizofrenie e da questo punto di vista il nostro paese è incolmabile. Volevo a questo punto dare una svolta rasserenatrice e anche tentatrice a questo programma. Gianluca Pezzi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Gianluca Pezzi, rappresenti l'altro versante, l'altra faccia della luna rispetto a quello che stiamo dicendo. Tu rappresenti Deluxe, spegni il telefonino Antonio Galdo, se no te lo faccio sprecare, nel senso te lo distruggo. Ecco, Gianluca Pezzi rappresenta Deluxe Blog, che è il blog dedicato a tutte le voluttà possibili e immaginabili, al regno dei sogni. Ecco, cosa ti passa sott'occhio tutti i giorni rispetto a questa nostra ansia di essere formiche? Sì, effettivamente su Deluxe Blog raccontiamo un po' il mondo dei sogni, che in realtà è un mondo reale, ovvero sia il mondo del lusso. Tutti i giorni andiamo appunto a raccontare e, se volete, a recensire quello che è un po' il meglio della produzione mondiale. Sarebbe lo schiaffo alla miseria, diciamo la verità. Esattamente, esattamente. Dici la cosa più voluttuosa e più inutile, che ne so, lo scaccolatore raccontare... per cagnolini, cose del genere. Abbiamo alcune cose proprio di questi giorni, tipo il set da Monopoli di lusso che va dai $4,000-$7,000, piuttosto che un aspirapolvere incastonato con diamanti Swarovski, piuttosto che la Mercedes placcata in oro. Insomma, fanno parte di un mondo che assolutamente non è accessibile, o meglio, è accessibile a pochi, scusate, ma che comunque si tratta di un mondo reale. Ecco, alle nostre latitudini, nel nostro paese, di questo mondo che ci sembra talmente fantasmagorico, appunto, non essere reale, c'è qualcuno che realmente ne fa oggetto di consumo? Perché io penso che in tempi come questi, in cui non si sa dove mettere i pochi soldi che uno è riuscito a raggranellare, forse è una forma di investimento comprare appunto le scarpine da gatto tempestate di diamanti. Ma diciamo che dobbiamo vedere questo genere di prodotti sotto due punti di vista, perché c'è il prodotto un po' bizzarro come quelli che stavo elencando prima, e ci sono anche i frutti, se vogliamo, dell'ingegno, della ricerca sia a livello industriale che a livello artigianale, nel senso che un paio di scarpe prodotte da un artigiano di Bologna che le studia, le fabbrica, se vogliamo dare questo termine, a mano, hanno sicuramente un valore, è un valore che è alto. Possiamo però dare una sorta di giustificazione a questo valore, sappiamo benissimo che prodotti, abbiamo parlato prima del mondo dell'automobile, qui in Italia abbiamo le marche più all'avanguardia per quanto riguarda sportività e lusso, anche questo è frutto di ingegno e di studio. Quindi in conclusione Gianluca, mi verrebbe da pensare che in realtà di fronte alla ragazza che esce e compra 14 paia di scarpe, in fondo con il valore aggiunto magari del marchio, il fatto di essere moda, ma di qualità infima, che non avranno nessun tipo di possibilità di durata nel tempo, forse l'investimento nella scarpa artigianale alimenta e apre un'altra fetta di mercato, sarebbe più giusto interessare? È possibile, sì, personalmente sono di questa opinione. Antonio Galdo. Lo spreco è anche un'industria. Io nel libro ho dedicato un capitolo a questo argomento attraverso la testimonianza dello stilista Cavalli, Roberto Cavalli, che devo dire è anche molto schietta sotto questo punto di vista. Cioè l'industria del lusso di per sé è un'industria che costruisce sullo spreco un meccanismo e una filiera produttiva. Il fatto che questa industria sia così forte, sia andata così bene in questi anni, secondo me segnala due cose. La prima, che evidentemente quel mondo spaccato in due, molto ricchi e molto poveri, quella forbice si è andata ulteriormente allargando ed è insostenibile. Questo è un punto secondo me fondamentale. Questo è un mondo che con questo squilibrio non può girare. E la seconda cosa che evidentemente la cultura dello spreco è diventata talmente radicata dentro di noi che evidentemente ha alimentato un'industria che ovviamente è fatta anche di talenti, di qualità, di inventiva, e è un'industria che però colpisce quel tipo di sensibilità, quel tipo di approccio, quel tipo di valori che abbiamo costruito. Diciamo che può essere anche una scelta di cultura, di distinzione, investire come si vuole investire in prodotti che hanno un forte valore dal punto di vista della qualità, piuttosto che un forte valore dal punto di vista del marchio, della moda, dell'essere comunque distintivi di un sistema in realtà omologato di vita. Mattia, buongiorno. Scusami, prima di dare la parola a Mattia, fammi dire solo un concetto. Veloce. Io non ho nulla contro il lusso, ovviamente ne riconosco anche il valore di questo. Io amerei vivere nel lusso sfrenato. Esatto. Però se una delle mie figlie fosse interamente vestita e griffata tutti i giorni, avrei qualche preoccupazione. Ma quello non è lusso, quello è essere burini, scusami, ecco. È un'altra cosa. Mattia, buongiorno. Completamente d'accordo con lei, comunque. Ecco. Questo mi preoccupa. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo brevemente precisare una cosa. Io sono abbastanza giovane e mi sono immesso da poco nel mondo del lavoro. Mi occupo, diciamo, di un settore che va dall'energia piuttosto che al riciclo e via dicendo. Volevo però precisare su un altro argomento, quello di internet, ovvero perché non usare internet come forma di risparmio? Nel senso, io vedo tutti i giorni, parlavate prima di carta di credito, di banche, eccetera, io vedo tutti i giorni nelle banche, non so se anche voi notate questo, però uno spreco di carta allucinante. Ma sai, me lo chiedo anch'io, a casa il 90% della mia corrispondenza sono le cose che arrivano dalle banche, mie e di mia moglie. Ho pacchi di carta dove mi dicono semplicemente c'è un versamento. Inutili, totalmente esatto. Inutile, è vero. Io da un mese a questa parte ho fatto la richiesta alla mia banca di avere tutto via email e funziona benissimo in qualsiasi. Tra l'altro dà anche fastidio che poi questa carta quando uno poi la butta nella spazzatura e è piena a Roma di persone che vanno a rovistare, uno trova la mattina i propri estratti conto sciorinati fuori del cassonetto, fuori del portone, che può essere anche imbarazzante, la gente veda i propri problemi bancari. Francesco, così chiudiamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, non è solo, è anche quello che ha detto il precedente ascoltatore. Intanto buongiorno a lei e al suo ospite. Vada, che stiamo chiudendo. È anche una questione di educazione, cioè nel senso che la nostra generazione, la mia di quarantenne, non riesce per esempio a dire no, ma neanche, cioè è più facile dire sì che no ai nostri figli, cioè c'è la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, c'è il telefono col touchscreen, ci sono un sacco di cose. In web hanno tutto i nostri figli, hanno tutto. Comunque le volevo dire un'altra cosa oltre a questo, cioè che il mio senso civico, diciamo, anche se poco sviluppato, però abbastanza, diciamo, come quarantenne, e quello di appartenenza a questo, a questa Italia, a questo Stato, mi impedisce di rimanere indifferente a quanto sentito precedentemente. Precedentemente intendo la trasmissione precedente. Ancora, no, guardi, non vi permetto di prendere il gioco della mia buona fede. Stiamo parlando di un'altra cosa, non è che faccio censura. Ferrara ha tutto il modo di dire quello che vuole, figuriamoci, non è persona certo che qui manca gli strumenti. Non mi piace questo infilarsi subdolo nella mia trasmissione e parlare di un'altra cosa, non essendoci nemmeno le persone deputate a rispondere in questo caso. Non accetto questo comportamento. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.